Letture di Radio 24. In un recente editoriale su Panorama, Maurizio Belpietro sottolinea il crescente clima di odio e intolleranza portato avanti dalla cultura di sinistra. Giampaolo Pansa si occupa sul Riformista dell'intolleranza che troppa gente di sinistra nutre nei confronti di chi non la pensa in un certo modo. Ha tratto spunto da un paio di lettere inviate al giornale da persone che lamentano di essere state insultate in treno e in autobus per il solo fatto di avere tra le mani una copia del quotidiano milanese. Il frasario usato contro di loro va da «fai schifo» a «sei un servo di Berlusconi». Pansa, nel commentare le due lettere, riferisce di un episodio analogo di cui è stata vittima una sua lettrice, assalita a male parole perché, mentre era in attesa di un treno, leggeva il libro «La grande bugia», documentata denuncia dei falsi storici e dei crimini commessi in nome della lotta di liberazione. Naturalmente la madre degli imbecilli è sempre incinta e si potrebbe concludere che i due lettori del giornale e la signora sono stati sfortunati e hanno avuto il guaio di incappare in compagni di viaggio maleducati e fanatici. Ma Pansa, che fu cronista del Corriere della Sera negli anni in cui la sinistra menava e sparava, parole sue, e Montanelli era ritenuto un fascista insieme ai suoi lettori, non minimizza. Anzi, siccome il diavolo si nasconde nei dettagli, spiega che scruta l'orizzonte con qualche timore. Le aggressioni, gli insulti, le intolleranze sono il sintomo, il dettaglio, che segnala una malattia più estesa, un settarismo strisciante che trascina e che rischia di bruciarci tutti. C'è infatti una parte di sinistra che non si limita a contestare le idee che non le piacciono, ma assale chi ne è portatore o semplicemente lettore. E non si tratta di pochi scalmanati. Dietro c'è una cultura di odio, una violenza che per ora è verbale ma che non è detto resti tale. È una cultura da vecchi stalinisti, che punta alla demolizione, all'annientamento di chi la pensa diversamente. Colpisce con furia, senza rispetto degli avversari, che vede come nemici di cui sbarazzarsi. Per questa cultura, chi manifesta opinioni dissonanti non ha dignità né onore, non ha diritto di parola, fa schifo e basta. Non è un uomo, ma un servo. Forse qualcuno penserà che io enfatizzi pochi episodi, ma siccome tocco con mano da tempo questo sentimento di rancore, posso assicurare che nelle mie parole non c'è esagerazione. Mi limito a riportare le opinioni che si trovano online e a sintetizzare gli insulti e le minacce. A differenza di Pansa, però, non penso che il clima di intolleranza sia bipartisan. Non ho notizia di lettori della Repubblica o dell'Unità presi a male parole da qualche energumeno, e nemmeno di ingiurie contro chi appartiene a uno schieramento di sinistra. Ho provato a chiedere ad Antonio Padellaro, che del quotidiano che fu comunista è stato direttore, se gli è mai capitato di ricevere lettere di persone che segnalavano lo stesso trattamento riservato ai lettori del giornale, e se a lui stesso fossero arrivate offese, e la risposta è stata no. La stessa domanda l'ho rivolta ad altri giornalisti ritenuti di sinistra, la risposta è stata ancora no. Non voglio dire che a destra siano tutti angioletti, sempre pronti a comprendere le ragioni altrui. No, anche lì ci sono comportamenti esecrabili, ma penso che l'intolleranza sia patrimonio della sinistra. Di più, che faccia parte del suo DNA. E credo che chi si candida a diventare leader di un partito democratico, per definizione, non possa ignorare questo tema. Dario Franceschini, Pierluigi Bersani e Ignazio Marino diano un segnale di civismo nei confronti di quegli italiani che sono la maggioranza del paese. Evitino di considerarli tutti servi sciocchi di Silvio Berlusconi e impediscano che siano vittime dell'odio coltivato a sinistra. Sarebbe il miglior inizio per chi ambisce a governare l'Italia e a riunificarla. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Maurizio Belpietro, Pericolosa l'intolleranza di sinistra, da Panorama del 16 luglio. Quando vengono trovati positivi al controllo antidoping, a volte gli sportivi riescono a trovare giustificazioni che rasentano l'incredibile. Il tennista francese Richard Gasquet, numero 32 del mondo, positivo alla cocaina in un controllo antidoping, rischiava uno stop di un anno, ma se l'è cavata con 2 mesi e mezzo di squalifica. I giudici della Federtennis mondiale hanno creduto alla sua versione dei fatti. Ho conosciuto una ragazza francese, Pamela, in un pub di Miami. Ci siamo baciati, ma lei si era appena fatta e mi ha contaminato. Già il ciclista Gilberto Simoni accusò le caramelle alla cocaina della zia. Il campione olimpico dei 5.000 metri, Dieter Baumann, parlò di un dentifricio al nandrolone. La stessa sostanza fu riscontrata nelle analisi dei calciatori del Perugia, Bucchi e Monaco, che la imputarono alla carne di cinghiale, del laziale Fernando Couto, che la imputò allo shampoo, e dello juventino Edgar Davids, che la imputò allo sciroppo per la tosse. Una ciclista trovata positiva a sostanze anabolizzanti si difese dicendo di aver avuto un rapporto orale con un altro atleta dopato, mentre l'eccessivo testosterone nelle urine dell'americano Dennis Mitchell avrebbe avuto origine da una lunga serata di sesso e birra. Marco Boriello fu salvato dalla squalifica per la positività a due metaboliti del cortisone dalla fidanzata d'allora, Belen Rodriguez, che autodenunciò di aver passato al giocatore del Milan un fungo ai genitali e relativa pomata dopante. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Domenico Secondi da Libero del 17 luglio.